Il termine cortina di ferro, che sembrava ormai caduto in disuso, è stato recentemente riutilizzato da Pervez Musharraf, il generale presidente pakistano che nel 99 ha deposto un governo civile per insediare il suo regime personale. In questi giorni è in Italia. La cortina di ferro è quella che potrebbe separare l'Occidente dai musulmani, ha detto Musharraf all'ONU, ed è per questo che una vera lotta al terrorismo si può fare solamente eliminando le ingiustizie e le sperequazioni, le cui radici fanno crescere forte il virgulto della politica del terrore. In questa palude c'è per Musharraf anche la guerra in Iraq, cui Islamabad ha per ora negato i suoi uomini. A qualcuno è sembrata un'inversione di rotta rispetto al posizionamento del Pakistan a fianco di Washington contro Al-Qaeda, ciò che resta dei talebani, e in Pakistan contro gli islamisti locali troppo radicali. In realtà Musharraf parlava in un contesto, l'Assemblea del Palazzo di Vetro, in cui erano presenti sia i paesi della Lega Araba che quelli dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, che raccoglie 56 paesi. E parlava anche per essere inteso a casa, dove una coalizione di partiti islamisti governa la sua provincia più tumultuosa. Musharraf sa che senza quei voti il suo governo e la sua presidenza si troverebbero in seria difficoltà. Il presidente sa di essere un uomo in precario equilibrio, seduto com'è su una polveriera. Il Pakistan è un paese diviso in province turbolente, contese tra il potere dei mullah e quello dei latifondisti, le regole tribali delle province del nord-est, le esigenze di modernità di una piccola elite urbana e il potere dell'immensa burocrazia dei civil servant. Su questo pentolone Musharraf è seduto in compagnia del vero potere del suo paese, l'esercito, che gli è fedele solo in parte. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.